Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica. DJ Telesco. Secondo appuntamento del soundcheck di Radio 24 dedicato alla voce, la voce parlata e la voce cantata, perché approfittiamo della presenza in Italia e quindi a Radio 24 di Giovanna Gattuso, insegnante di canto accreditata lì negli Stati Uniti, dove guida ormai da tanti anni la sua Venice Voice Academy proprio a Los Angeles. Benvenuta Giovanna Gattuso. Grazie GG, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Ieri abbiamo iniziato a capire il funzionamento della nostra voce, come funzionano le corde vocali quando si emettono le note proprio per cantare, e oggi vorrei andare avanti con l'argomento approfittando della tua presenza per parlare anche dei metodi di canto. Intanto io vorrei anticipare che tutti più o meno possono cantare una canzone, ma molti di meno invece riescono a cantare più canzoni di seguito. Adesso andiamo direttamente al punto, perché dopo qualche minuto un cantante improvvisato comincerà a sentire mal di gola e la sua voce inizierà a farsi roca e spiatata. Se nonostante tutto continua a cantare, di lì a poco si ritrova afono e corre il rischio di procurarsi un edema alle corde vocali. Sei d'accordo? D'accordissimo. Allora, questo accade perché istintivamente il cantore, quindi non il cantante improvvisato, usa la sua voce come se parlasse, ma l'uso della voce che si fa normalmente, sebbene sufficiente allo scopo di parlare, impone alle corde vocali delle sollecitazioni troppo forti nel caso del canto, e quindi per poter cantare per ore senza danni, senza sforzo e con una voce sempre gradevole, il cantante deve reimparare ad usare la sua voce in modo nuovo. Attraverso che cosa? Attraverso lo studio, l'allenamento e l'auto-osservazione. Quindi che cosa significa, Giovanna Gattuso? È qui GG Telesforo, interviene appunto l'insegnante di tecnica vocale che, capito il problema del cantore, dovrà appunto intervenire con una sana e buona istruzione, educazione per quel che riguarda innanzitutto la respirazione e quindi come si respira, come si deve respirare in una maniera corretta, soprattutto quando sollecitiamo le corde vocali maggiormente di quello che è un semplice uso quotidiano del parlato. Come si respira correttamente quando si canta? Questo è un punto molto interessante e sul quale io pongo grandissima parte della mia didattica, soprattutto per chi all'inizio, poi chiaramente diventa un po' come guidare, no? Le fondamentali. Si inspira dal naso sempre, proprio per non andare a creare, non voglio entrare magari in cose troppo tecniche, però una respirazione sana, quindi che interviene su quel che può essere il pulviscolo atmosferico, la temperatura, germi, virus, batteri, eccetera. Il naso è fatto apposta per filtrare tutto quello che si può filtrare, chiaramente non è il 100%, ma sicuramente non l'aria a questo punto, quando arriva a toccare le corde vocali, non aggredisce appunto le corde vocali stesse. Però per molti cantanti è difficile inspirare sempre, prendere i fiati sempre dal naso, quindi è una regola fondamentale o si può in qualche modo giocare fra la inspirazione con il naso e quella con la bocca? Io per cominciare dico che è una regola fondamentale, che poi chiaramente nel momento in cui tu hai dimestichezza con la tua voce, è poi chiaro che ci sono delle concessioni che nel momento in cui sai di farle puoi a quel punto respirare con la bocca se io voglio fare un effetto particolare, o comunque se controllo questa cosa, se so che sto respirando, inspirando dalla bocca, ovviamente posso gestirmela. L'importante è non farlo costantemente ed in maniera inconscia, perché questo inevitabilmente va ad irritare per prima cosa le corde vocali, quindi da una semplice irritazione poi i danni vanno peggiorando col tempo se appunto si continua, si perpetua l'idea di inspirare dalla bocca. Ecco perché i cantanti improvvisati, i cantanti da karaoke, poi perdono la voce dopo la prima esibizione, perché nella maggior parte dei casi inspirano utilizzando la bocca e quindi creano in qualche modo dei danni alle corde vocali. Andiamo subito alla musica, ti vorrei far ascoltare, torniamo ad ascoltare la voce bellissima di una signora bianca che se la batteva con Ella Fitzgerald in quel periodo, e questa signora meravigliosa si chiamava Anita O'Day e canta un brano che è un classico dello swing, scritto da lui prima e portato al successo anche da Duke Ellington. Il brano si intitola Sing, Sing, Sing al soundcheck di Radio 24. La voce di Anita O'Day qui al soundcheck di Radio 24, nostra ospite Giovanna Gattuso ancora una volta per parlare della nostra voce, e fra pochissimo andiamo a verificare le tecniche vocali, i vari metodi in circolazione. Soundcheck, il suono della musica. Siamo tutti abituati a sentire la voce di Chaka Khan sparata a mille a palla cantando i suoi successi tipicamente soul e R&B. Qui invece Chaka Khan ci dimostra come possa essere utilizzata la sua vocalità anche per una ballad strepitosa come The End of a Love Affair qui al soundcheck di Radio 24, in questa puntata dedicata alla voce umana con la presenza della bravissima insegnante di canto Giovanna Gattuso. Allora, stiamo andando avanti con gli argomenti, mia cara Giovanna, e vorrei a questo punto fare anche degli esempi. Ieri parlavamo proprio della voce impostata, quella tipica dei cantanti di stampo classico, quelli che devono esibirsi per l'opera, e della voce naturale. Possiamo fare un esempio, far capire agli amici come cambia il suono con una voce impostata e poi qual è l'impostazione tipica per un cantante, diciamo, da opera. Proviamo a fare un esempio cantato? Un esempio cantato, sì. Ti faccio magari su una nota, ti faccio sentire le due differenze sull'utilizzo del fiato nella voce non impostata, quindi nel canto moderno, che raggruppa tutta una serie di musiche, e il canto lirico. Devo allontanare il microfono, sennò mi spacchi tutto? No, dai. Mi trattengo. Ad esempio. Ecco, che cosa succede? Si sente che c'è un cambio. Rifacciamolo una volta e vediamo quando cambia, no? Va bene, allora, non lo imposto. Non lo imposti. Mi. Imposta. Mi. Ecco, fisicamente che cosa succede? Fisicamente sono andata ad intervenire sul palato, quindi la parte del palato molle, quella che si muove quando ad esempio sbadigliamo, si alza, vado ad intervenire su quello e vado ad intervenire sul fiato. Nel momento in cui io imposto un suono lirico, il mio fiato lo sposto nella parte frontale, proprio dove zigomatica, sul labbro superiore, quindi lo sposto avanti e in alto. Quindi per impostare la voce bisogna impostare la cavità orale come se si sbadigliasse, giusto? Esattamente, proprio per andare a creare quello spazio dove il suono può rimbombare, può risuonare. Uso ogni tanto dei termini così semplici per farmi capire, però sicuramente più spazio ho, più il fiato, l'aria che io sto emettendo dalle corde vocali ha spazio chiaramente, e più posso gestire questo suono. Questo tu lo spieghi anche nel metodo Crossover Singing Method, certificato negli Stati Uniti. E in che cosa si differenzia un po' dalle altre metodologie il tuo libro? È un percorso semplice, se così si può dire, di studio. C'è una raccolta di esercizi proprio partendo da quella che è la respirazione e utilizzando dei fonemi, vocali e consonanti in un determinato modo e con dei determinati esercizi che vanno a sviluppare quella che è la nostra voce per poterla poi utilizzare sia appunto nella lirica, nel canto classico, ma anche per quello che sono le miriade di stili musicali moderni. Quindi un percorso di studio molto semplice che ti fa arrivare al risultato facilmente. È un signore che ha studiato tantissimo e si sente quando canta, e tra l'altro è anche uno degli insegnanti di canto più accreditati nel mondo, è certamente Bobby McFerrin, che qui ascoltiamo al soundcheck di Radio 24 con una composizione scritta a quattro mani con il pianista Russell Ferrante, già leader di Yellow Jackets. Il brano è bellissimo, si intitola Freedom is a Voice. Check, il suono della musica. Sì, i suoni che sentite in sottofondo vengono da un CD didattico che è stato prodotto dalla nostra Giovanna Gattuso, che ha avuto una bella idea, quella di produrre il primo corso di canto per automobilisti. Che diavolo di idea è questa? Sì, si chiama Allaccia le cinture e si canta, primo corso di canto per automobilisti. A me non è sembrata un'idea così folle, anche perché noi tutti cantanti abbiamo passato ore ed ore a studiare tecnica vocale alla guida della nostra autovettura. Tutti i miei allievi continuano a dirmi: ma posso studiare in auto? E da qui è venuta questa idea, insomma, di produrre, registrare un CD proprio per studiare alla guida senza distrarsi troppo, chiaramente. E questi esercizi, se così vogliamo chiamarli, sono molto divertenti e sono tutti ispirati dai suoni che noi sentiamo alla guida del volante, quindi a partire dalle frecce, dalla pioggia, dal clacson delle auto, il traffico, il passaggio a livello, eccetera eccetera. Tutto è diventato uno spunto sonoro. Allora proviamo a fare un esercizio insieme, rimettiamo questa traccia qui, eccola qua, ecco. Bisogna ripetere quello che fate. Esatto, c'è la voce guida che dà. C'è la modulazione sempre, cresce sempre. Cresce sempre. Cresce. E va avanti così, e vai avanti per quante tracce, quante ce ne sono? Una ventina, quindi alla fine impari a esercitarti, scaldi la tua voce e puoi fare le tue performance. È una bella idea, Giovanna. Ma tu fai studiare anche queste cose ai ragazzi alla Venice Voice Academy? Io sì, faccio studiare su questo lavoro e ovviamente anche sugli esercizi del metodo di canto crossover. Allora, quando ci saranno le prossime masterclass a Los Angeles? Allora, il prossimo entusiasmante appuntamento sarà dal 16 al 20 di aprile a Venice Beach, proprio alla Venice Voice Academy. E per chi vuole avere informazioni può andare direttamente sul sito www.venicevoiceacademy.com o scriverci ad infocrocs@gmail.com. Quante ore di studio al giorno? Sono 5 giorni di una masterclass appunto intensiva, mattina e pomeriggio, in cui si lavorerà sia sulla tecnica vocale, sull'improvvisazione e ovviamente, come sempre, approfittiamo del fatto di essere ad un passo dalla spiaggia di Venice per fare questa parte di benessere della respirazione e del lavoro proprio fisico sulla respirazione in spiaggia. Molto bene, ci sarò, vengo, guarda, sicuramente mi porto anche tutto la baradan per fare puntate radio da Los Angeles, va bene? Tu ci sarai, sei graditissimo ospite e ci sarà anche un altro fantastico docente e cantante che è Joy Blake, che per la Venice Voice Academy viene di proposito da Boston. Lui è un insegnante della Berkeley e ci onora della sua presenza. Allora ti faccio ascoltare la voce di un giovanissimo interprete di jazz contemporaneo, il bravissimo Sachal Vasandhani. Il brano è un classico intitolato The Very Thought of You. Allora, grazie a Giovanna Gattuso per la partecipazione al nostro soundcheck. Allora, ci vediamo, ti prometto che sarò lì a Los Angeles. Qual è il periodo della masterclass alla Venice Voice Academy? La masterclass è stata studiata proprio per gli italiani perché si tiene durante le feste pasquali. Le date sono 16-20 aprile. Venice Beach, vi aspettiamo, ti aspetto sicuramente. Senti, però dobbiamo organizzare anche la pasquetta con fave e pecorino sulla spiaggia di Los Angeles, te lo dico, lì a Venice Beach, perché sennò non posso venire. Te lo prometto e te lo garantisco. Grazie a tutti voi, grazie a Giovanna Gattuso, noi ci risentiamo domani sempre alle 15:20. Vi ricordo che l'indirizzo di posta elettronica per scrivere al soundcheck è soundcheck@radio24.it. Chiudiamo con una delle voci più belle della storia della musica, quella di Stevie Wonder, ripreso dal vivo in Love's In Need of Love Today. Grazie a tutti, buona giornata e buona musica da Gigi Telesforo e Giovanna Gattuso. Grazie Giovanna. Grazie a te. Down a little, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Soundcheck, il suono della musica.